Il nebbio e l'usignolo da Favole di Jean de La Fontaine, tradotto da Emilio De Marchi, registrato per LibriVox.org da Paolo Fedi, settembre 2007, Roma. Dopo che un nebbio, ladro patentato, ebbe a sé schiamazzato ed eccitato dei ragazzi lo stuolo, mise gli artigli in corpo a un usignolo. Questo araldo, gentil di primavera, della sua vita a lui chiedea perdono, dicendo: «E che ti giova, anima fiera, mangiare un animale che è tutto suono? Se attendi un poco, a te cantar saprò la storia e il forte amore di Tereo». «Tereo? Che roba è ciò? Forse un cibreo che piace ai nibbi?» Il nibbio dimandò: «Tereo, così l'usignol cantarella, fu un re del quale ebbi a sentir gli ardori, ed io ne canto una canzon sì bella che ovunque ha fatto palpitare i cuori». «È cosa», disse il nibbio, «che consola sentire a pancia vuota una rietta? Ai re non spiacque la mia storia. Aspetta di contarla ai tuoi re questa tua fola. Io me ne rido e sto al proverbio vecchio che dice: pancia vuota non ha orecchio». Fine della favola Il nibbio e l'usignolo. Questa registrazione è di dominio pubblico.